pazzo, sono la TV. Guance rosse, rosse come melle. Un filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria. C'è destino, ma nelle stelle. E poi tu dici solo le cose belle. C'è, sarebbe bello se fosse un re, così la donna americana o si innamora o la trasformerà.